Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Basta, è ora di finirla. C'è troppa allegria, troppa spensieratezza, troppa ilarità per le strade, nei volti. Si palpa questo senso di totale disimpegno. È ora che si prenda coscienza con quelli che sono i fatti gravi, ineluttabili, profondamente segnanti nella nostra vita. So che molti stanno per bazzecole come quello delle tasse, come quello della stretta economica, come quello della grande manovra che sembra tutti ci va a far soffrire, dando un senso profondo di contaminazione anche alle lacrime del ministro del lavoro Elsa Fornero, che abbiamo visto domenica durante la conferenza stampa di presentazione della manovra economica. So che quelle lacrime sono rimbalzate in tutti i giornali, commentate, eviscerate e creano un punto di riferimento per quanti pensano che oggi la tristezza sia imperante. Non sono queste le cose per cui occorre essere tristi, anzi, vi darò questa mattina una formula salvifica. Come si faceva nei tempi della spensieratezza, quella reale, quella concreta, quella in cui il paese marciava veramente a passo di carica, in cui sembrava che l'economia arridesse, sembrava che tutti andassero verso un radioso futuro? Come faceva a ricordarci in realtà che noi siamo esseri umani e quindi condannati dalla falce implacabile della cattiva sorte? Come facevamo a farci capire che in realtà la vita non è fatta soltanto di gioie, soltanto di spensieratezze, soltanto di allegrie, soltanto di concupiscenza, soltanto di compiacimento della carne? Attraverso un fantastico quanto educativo sistema. Portavamo, si andava, i bambini, i ragazzi, le giovani generazioni, coloro che più erano inclini a lasciarsi andare al demone dell'ottimismo, al cinema. Ci si portavano normalmente durante le ore scolastiche. Chi aveva la fortuna di frequentare istituti religiosi aveva proprio dei setting dedicati a questa particolare terapia del dolore. Beh, questa mattina, per ricordarvi in realtà che tutti dobbiamo morire, riprendiamo un fortunato filone di analisi della società attraverso il cinema, che è quello del Lacrima Movie. Promettimi una cosa. Che cosa? Tutto quello che vuoi. Se non potrò più camminare, non farmi guarire. Ti ho detto che camminerai, Andrea, stai già migliorando. Non ho mica paura di morire, sai. Anche la mamma è morta. Levami la tenda, non la voglio. No, devi stare qua sotto, tesoro, ti fa bene. Non la voglio, non voglio vivere senza la mamma. Ma ci sono io, caro, ti starò sempre vicino, sempre accanto a te. No, tu vuoi bene solo a Milo. No, non voglio vivere senza la mamma. Tu non mi prendi mai in braccio. Signor maestro, non l'ho finito il tema. Non mi riesce, non so più cosa scrivere, mi scusi. So che tutti vorreste seguire fino all'ultimo istante questa straziante agonia. Vi posso semplicemente dire che in questo fantastico Incompreso di Luigi Comencini, capolavoro del genere Lacrima Movie, questo bambino che sta morendo sotto la tenda ossigeno, voi direte, sei cinico, ridi di questa cosa. No, io mi astraggo per un attimo, vi prego di fare la stessa operazione, dal fatto in sé contingente, dall'aspetto triste, indicibile, l'orrore, la tristezza e lo sconcerto in cui butta la malattia di un ragazzino, ma vorrei riflettere sul meccanismo scellerato che faceva sì che questi episodi di consueto orrore quotidiano attraverso cui molte persone passano realmente concretamente, venivano presi, venivano addomesticati, venivano accelerati, venivano conditi come mettono nei ristoranti cinesi degli esaltatori di sapidità nelle vivande per farle sapere di più, e tutto il concentrato di orrore e di rimosso riguardo a ciò che più ci atterrisce veniva messo. Questo bambino che sta morendo in una malattia terribile sotto la tenda ossigeno per una sorta di suicidio programmato lancinante che si è procurato per far richiamare l'attenzione da parte di suo padre, che era del tutto insensibile la sua richiesta di affetto, viene alla fine portato a una sorta di eutanasia veloce dal padre, che lo prende in braccio, lo porta esposto alle intemperie o qualcosa del genere. Ma poi sarà Giuseppe Sansonna, che qui studio con l'aria compita, ci spiega in questo film incompreso come accade realmente la soppressione totale di questo ragazzino. Ma in realtà questo è un bel film d'autore di Luigi Comencini. Sì, però è infame l'intento. Più che altro bisogna far soffrire i ragazzini, fargli vedere che c'erano delle situazioni ancora più terrificanti delle loro banali quotidiane incertezze, e quindi educarli massacrandogli la coscienza. Ma la ferocia implacabile del sentimentalismo italiano esploderà poi nei tantissimi epigoni, perché qui in effetti questo è il caposcuola. Questo è un film a sé, da cui poi è sgorgata. Avevamo vari Marcellini pane e vino, avevamo delle cose, certo, prima. Certo. Però in questo caso il dolore è alla fine del film. In realtà il nodo del film è l'incomprensione di cui siamo tutti, ci sentiamo soggetti, cioè, è quello di archetipico che tocca il film, cioè questo bambino muore la madre, lui rimane, però non si indulge troppo in questi, se non nel finale. Beh, ecco, ammazza, che vuoi di più di adesso? No, ecco, certo, era legata questa agonia sotto la tenda ossigeno, vede la maestra, i compiti, cioè rimane diligente anche dell'atto estremo. È il delirio finale. Sì, ma uno nel delirio può vedere di tutto, le cornucopie, lui vede la maestra. Sì, vede la maestra per questo compito in cui deve parlare del padre. Tra l'altro Stefano Colagrande, l'attore che fa il ragazzino, poi è diventato radiologo nella vita, stimato radiologo, lui, i radiologi non lo salvano nel finale del film, e però lui invece poi lo è diventato. Beh, doveva in qualche maniera riscattarsi questo povero attore fanciullo così massacrato sul nascere. Tu pensa il trauma di un ragazzino che è costretto a recitare questa parte. Certo, però la finezza di Comencini è mettere un padre che è il console appunto britannico a Firenze, con una faccia stolida e l'incomprensione, l'ottusità piena alla Amedeo Nanzari, che non capisce il dramma del figlio, è tutto per il secondo genito, che invece è antipaticissimo, petulante, scelto apposta. Quindi c'è una scelta perfida che in realtà racconta una condizione umana, racconta in pieno una condizione umana. 800240024, a grande richiesta, avete richiesto anche una settimana fa, vi proponiamo la seconda parte del fortunato genere Lacrima Movie. Il Lacrima Movie è un genere cinematografico fatto apposta per punire i bambini del fatto che probabilmente non hanno sofferto abbastanza nella loro tenera età, e quindi veniva scientificamente messo assieme tutto un coacervo di disgrazie, di malattie, di orfani, di massacrati, di cattiveri, in cui il massimo dell'abiezione umana si confrontava con il massimo dell'innocenza violata. E questa era la chiave educativa e catartica, per cui soltanto attraverso una sofferenza immane e indicibile si raggiunge comunque uno stato di grazia. 800240024, quanto ha inciso il Lacrima Movie nella vostra formazione, nella vostra storia individuale? Quanto pensate che sia in qualche maniera salutare riproporre oggi questo genere, visto che tutti si lamentano per futilissimi motivi come problemi di tipo economico? Pensate cosa è di fronte alla tenda ossigeno, di fronte a questa infanzia macerata. Ora io devo dire, lo dico l'ultima volta, poi vado avanti e mi lascio andare preso dal filone e dal demone esegetico della Lacrima Movie. Non è che io sia insensibile al dolore, non è che io consideri una sciocchezza la sofferenza, assolutamente. Io trovo scellerato, ma lo trovo interessante, quindi artisticamente stimolante nell'analizzare appunto gli abissi della contemporaneità, usare questi motivi così cocenti, così dolorosi, così purtroppo frequenti nelle avventure esistenziali di ognuno di noi, per dare un prodotto educativo per i nostri cattivi ma perfidi e ottimi ragazzi. Ti devo confidare un segreto. Dimmi, però non stancarti troppo. A casa mia tengo nascosto un tesoro. E che cosa c'è dentro quella scatola? Tutti i soldi che ho messo da parte, un bel po'. Come ci sei riuscito? Ho lavorato tanto. Perché? Avevo paura che papà morisse da un momento all'altro. E l'hai fatto per questo? Sì, volevo che se a mio padre gli fosse accaduto qualcosa, andasse in cielo con tutti gli onori. Con un bel vestito, suono d'organo e tanti fiori. Mi sarebbe piaciuto che vedendo mio padre, il Signore dicesse agli angeli: guardate com'è bello ed elegante il papà di Giacomino. Ma pensate che culo il papà di Giacomino. Alleva un bambino, fa i sacrifici, lavora, paga le tasse, si alza tutte le mattine, risparmia per allevare e dare degli strumenti di crescita, di evoluzione al suo bambino, e il bambino, giorno dopo giorno, nel suo porcellino di ceramica, mette soldino dopo soldino, ma non per comprarsi una PlayStation, non per comprarsi un gelatino, non per andare a un cinemino, non per fare una vacanzina, ma per preparare il funerale al papà, Giuseppe Sanson. Qui siamo nel pieno concetto di gangbang emotiva che già citammo in altre occasioni. Questo è il bambino che parlava, il Renatino Cestier, ovvero la vittima sacrificale, cardine di tutti questi film, il biondino che muore sempre in tutti i film di questo perché genere. Perché fu scelto proprio questo Renatino Cestier? Aveva la faccia proprio sfigata, antropologicamente adatta per questo aveva ruolo. Aveva un pallore endemico che si prestava al suo ruolo di vittima cristologica, perché di fatto in questo film lui, dickensianamente, ma nelle mani brutali del macellaio Gariazzo, diventa il bambino che ha la madre che si prostituisce abbandonando il padre, che è un vecchio attore di avanspettacolo. Un po' figlio di puttana si vedeva che era, però questo bambino che mette da parte i soldi filologicamente per il funerale, sì. No, non vorrei discriminare con questo la categoria protetta dei figli di madre ignota che per motivi di bisogno procaccia intime d'azione di sottopagamento, non c'è nulla di male, però in effetti dei segni c'erano di intrepidezza sentimentale in questo ragazzino che mette da parte i soldi per quando papà schiatterà. Esatto, ma il bambino è l'unico in realtà perla di innocenza in un assommoir alla Zola, la bestia umana, la Céline lo circonda, ci sono tutti, tra l'altro gli attori che saranno le comparse e i colleghi di Fantozzi sono qui presenti a essere i persecutori poi del padre che è alcolizzato perché la madre è andata a prostituirsi, l'ha lasciato. Allora lui col suo carrettino, il piccolo Renatino Cestier, organizza questo teatro di burattini per poter mantenere questo padre alcolizzato che non mantiene, e per quello che pensa in prospettiva a un grande funerale in cui lui possa andare appunto a cantare con i cherubini in cielo in maniera degna, non in maniera appunto trasandata, che sia perfettamente appunto, tra l'altro è pieno. Sì, perché i cherubini poi ci tengono molto che non sia ben vestito quando schiatta e va a cantare tra di loro. Sì, esatto. Poi la cosa meravigliosa è che questo film è affollato oltre che dei caratteristi dei poliziotteschi, appunto abbiamo già detto, c'è Umberto Dorsi che fa il tassista, che si commuove alla fine, che poi sarà il mega direttore, quello del biliardo, il grande giocatore di biliardo in Fantozzi, e poi James Whitmore che è il padre alcolizzato, veniva dal mondo del pianeta delle scimmie, Lee Cobb che era quello di Fronte del Porto, insomma tutti vecchi attori americani che venivano a raccattare dollari. La scheda su Wikipedia di questo film dice che Giacobino è figlio di una ballerina di varietà. Perché tu hai detto una prostituta? Diventa subito prostituta, cioè è ballerina di varietà per i primi 3 secondi del film, perché subito abbandona il padre e va a prostituirsi, insomma. Ci voleva una... Ma la cosa meravigliosa è che tutta questa umanità corrotta, marcescente, basta la morte del bambino per trasformare tutti di colpo, d'incanto, come in un Capra di terzo ordine, un film di Capra di terzo ordine, in un'umanità meravigliosa che al capezzale di questo bambino accorata porta soldi, fiori. Il messaggio è drammatico, sembra quasi che ci sia una sorta di divinità assetata di sangue, perché sì. Uno deve sacrificare deve sacrificare il figlio perché possano migliorare le situazioni, ma di colpo, come nelle porte di non può passare questo messaggio, se no comincia una terribile operazione all'interno delle famiglie italiane. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Ci tiri su. Faccio una premessa, non ho la cultura cinematografica dei suoi ospiti, quindi era solo... Sanson tutta la vita ha studiato solo questo. Malienato. No, solo un'aggiunta che volevo fare, no? Io conosco molto bene Lincoln, perché tra l'altro l'ho visto in uno degli ultimi recenti viaggi che ho fatto all'estero e me lo sono portato negli ormai attuali iPad eccetera. A lei gira, quando va all'estero si porta un iPad incompreso, ma perché? Deve stemperare il turismo sessuale con delle attività mortificatorie, mi spieghi? No, non è il turismo sessuale, sono andato in viaggio per lavoro, vado spesso in viaggio per lavoro. Ma perché si porta incompreso dentro? Dietro? Perché se quando hai i film che ti vengono passati tuoi amici eccetera eccetera, questo era un film che mi piaceva molto e ce l'avevo all'interno del dischetto portatile sostanzialmente. Ma a me il professor Chiappini mi dà, non so, Natale a Bombay, non mi dà incompreso. No, mi piaceva molto rivederlo perché l'ho rivisto tante volte. In quale città del mondo ha riguardato incompreso, per capire il clima? No, ero in viaggio in aereo, tornavo dall'Asia e Come vede, me lo sono guardato in aereo. In quale paese dell'Asia è andato? a Shanghai, sono stato in Cina, poi sono... Okay. Una cosa che volevo dire invece, che a pari merito dell'Incompreso, io metterei un altro film che è il più sconosciuto, però ha lo stesso periodo più o meno e lo stesso effetto, era L'ultima neve di primavera. Guardi, lei sta sfondando porte aperte. In che città era ambientato L'ultima neve di primavera? No, questo non lo ricordo, perché difatti non lo sono più riuscito a trovare. Era ambientato a Perugia. A noi a Perugia, i salesiani ci portarono più volte in pellegrinaggio a vedere questo film, che era praticamente stato girato nella nostra città. Resti in linea, la faccio divertire. Sono stanco, papà. Papà, se mi addormento, tienimi la mano, così so che non mi lasci. Ultima neve di primavera, girato a Perugia, Lacrima Movie, dove anche lì c'è un bambino che schiatta. Il nostro ascoltatore non ricordava bene il titolo, ma già stanno attingendo tutti i loro ricordi adolescenziali. Io so benissimo, i fanciulleschi soprattutto, che l'asse portante di questo paese, penso addirittura anche i nostri nuovi ministri, è una generazione cresciuta con il Lacrima Movie. Il Lacrima Movie intesse fortemente, radicalmente, la nuance delle loro grisaglie. E quindi è giusto rievocare questo strumento, questo luogo comune dell'immaginario che così tanto ci ha formato. Ultima neve di primavera, Sansonna. Il regista Raimondo Del Balzo, vero killer del genere Lacrima Movie, e qui, come citavi tu l'altra volta, qui c'è una delle scene madri, in finale il bambino sta agonizzando, di solito Renatino Cestino sta agonizzando, l'Ulisse televisivo. In questo caso qual è il motivo dell'agonia? La leucemia, insomma, certo, terrificante. Baking Famine lo porta in braccio a fare l'ultimo giro di giostra, di notte fa aprire dai truci sordi di giostrai che in piena notte rinunciano ai bagordi e aprono una giostra solo per lui, lo porta, come dicesti tu, lo porta. Quelle giostre erano quelle che a Perugia chiamavano i baracconi, che venivano verso il 2 novembre, c'era una zona proibita in cui c'era questo luogo di delizia, erano delle giostrine schifose col tiro a segno. E come dicesti tu l'altra volta, gli dà il colpo di grazia col vento. Lo massacra. Col vento del brucomela, insomma, gli dà questi colpi che... No, era il calcio in culo, era. Beh, calcio in culo un po'... No, lo dico perché la gente deve fraintendere. Avrebbe ruociuto al sentimento. Allora, dicesi con questo termine gergale, è quella specie di giostra, sono dei seggiolini legati che per un motivo di forza di gravità, più gira forte la giostra e più girano forte. Dal punto di vista drammaturgico... No, devo dirlo perché si chiama così, no, sennò sembra che voglio gratuitamente dire parolacce. No, si trattava di una sorta di... Di solito si lavorava in coppia, c'era il ragazzino secco, macilento e quello più robusto che lavoravano in coppia. Si vinceva un giro in più chi prendeva il palloncino attaccato a un palo, il secchettino stava davanti, il grosso dietro, e a un certo punto i due sedili si univano in maniera quasi indissolubile. Al momento giusto il grosso dava un grosso calcio nel sedere a quello avanti che cercava di prendere il palloncino e vinceva la corsa. Se del Balzo ti avesse sentito, avrebbe potuto dare a Baking Famine un calcio al piccolo Renatino e portarlo a prendere appunto la non aveva la cultura, non aveva la cultura dei baracconi. Invece il bambino muore su quest'ultimo giro di giostra. Fiammetta. Buongiorno. Lei ha già un nome da Lacrima Movie, lei è stata concepita dopo un Lacrima Movie, secondo me. Ma non penso proprio. L'hanno chiamata Fiammetta. No, sono stata chiamata così perché ero molto agitata già durante la gestazione. Di no, conseguenza... pensavo avessero visto Piccolo Mondo Antico, Fiammetta che affoga nel fiume, che affoga nel lago, era bellissima. È un pre-Lacrima Movie quello. Fiammetta vezzosa del Mississippi e muore affogata, la cosa terrificante. No, Ophelia. Non era Fiammetta, era Ombretta. Ah, Ombretta era. È Ombretta sdegnosa. No, non è Fiammetta. Non no, ma ci sta bene. Vola la piccola fiammiferaia. No, volevo dire che io... Guardi, la piccola fiammiferaia è un grande personaggio, Ma la conosco poco, devo come dire no? La verità. La bambina macilenta, solo vendi fiammiferi il giorno di Natale, in mezzo io alla neve. Io devo dire che sono... Gli ha finito, sta per morire. Ha solo tre fiammiferi, accende tre fiammiferi e ha tre visioni bellissime. Una tavola imbandita, una cosa... Poi l'ultimo fiammifero accende e vede la sua nonna che la prende, lei schiatta e la porta in paradiso. Ci picchia. No, io devo dire che sono specializzata sui Lacrima Movie, ma con gli animali come soggetto. Sono veramente... quelli riescono a commuovermi al di là di... Ci manca, no, me lo dica, ci manca. Qual è un Lacrima Movie? Allora, intanto il primo film che mi hanno portato a vedere al cinema i miei genitori, che poi è un film di animazione, era Red e Toby. E infatti me lo ricordo ancora poco, ma la cosa che mi è rimasta più impressa è stata la mamma di questa volpe che viene uccisa. E quindi... Beh, anche la mamma di Bambi Bambi viene ammazzata. Ecco, e poi devo dire un film, che questo qua tra l'altro è una storia vera, è stato Antartica, che io sono riuscita a vedere, ma dopo 10 volte che lo iniziavo, perché tutte le volte era una tragedia di pianti e lacrime, che oltretutto appunto è una storia vera, e recentemente qualche anno fa... Cioè l'hanno raccontata diretti protagonisti la storia? No, è stata raccontata a distanza di anni, è la storia di questa muta di cani che a causa di una tempesta viene abbandonata in questa stazione, massacri, piaghe in Antartide, e muoiono ognuno in maniera diversa, atroce, esatto, e gli unici due sopravvissuti sono i due fratelli di questa muta, che realmente un anno dopo, quando la... Ma senta, signora Ombretta, no, resti lì, perché ci serve questo genere di necrozofilia lacrimosa, ci interessa, non lo conoscevamo. Mandiamo un attimo le informazioni, diamo spazio alle informazioni della borsa, poi lei deve continuare a confortarci, perché questa è una deriva che non avevamo mai sospettato. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Fiammetta Ombretta, sta ascoltando? Sì, guardi, mi è venuta la pelle d'oca. La pelle d'oca, vero? Anche a noi. Sì. Questo è il momento della bufera in cui i cani di Antartica li sta chiamando all'appello l'ultima volta. Esatto. Mi diceva il professor Chiappini, non c'è molto dialogo in questo film, coi cani non è che si parla molto. No, però sono ma perché io comunque vivo gli animali come assolutamente, come posso dire, affettivi, e quindi... No, questo l'avevamo capito, che aveva una particolare collezione. Però ha anche una sua parafilia legata alla necrofilia, lei ama vederli anche soffrire, non lo so. No, per carità, sono un'infermiera. Di animali o di cristiani? Di cristiani. Sì, cioè, musulmani, cinesi, buddisti, tutti? Sarà che forse vedo tanta sofferenza tutti i giorni, allora quando mi voglio fare un pochettino del male cinematograficamente parlando preferisco buttarmi sul genere, perché comunque le sofferenze umane, insomma... Comunque lei predilige il lacrima movie di settore zoofilo, legato agli animali. Tra l'altro, volevo riagganciarmi a quello che avete detto prima, nel senso appunto il fatto che sono magari rivolti ai bambini, che però questi bambini insomma soffrono di quello che vedono, perché non hanno magari tutti i nostri filtri. Recentemente... Sì, ma questi film sono fatti apposta per far soffrire i bambini, cioè c'è un intento malvagio dietro. Non sono... Forse i nostri bambini... siamo in una fase in cui non si usa più fare questo tipo di film. Infatti è stata fatta una versione edulcorata di Antartica recentemente, in cui i cani si salvano tutti. Cioè prendono un po' di raffreddore, di bronchite e passa. Esatto, poi arrivano, ma ci sono tutti salvi, va tutto bene, eccetera. Ora non dico... Io farei una versione con i cani zombie che muoiono ma ritornano fuori zombie. No, sono tutti vivi, sono tutti belli, sono tutti in salute, appunto si è persa forse un pochettino. Adesso i nostri bambini sono abituati agli animali virtuali, che insomma muoiono ma non soffrono nell'accezione... Lei dice quel sano senso di partecipazione al dramma di essere nati in questa condizione spazio-temporale, manca, c'è una lacuna se non guardano il lacrima movie, soprattutto il lacrima movie di genere animalesco, che da bambi in poi c'è tutta una caterva di animali massacrati, uccisi, lacrimosi. Io, veramente, per me la mamma di Bambi morta è stato un grande trauma, il primo film che ho visto in vita mia. Non capivo perché, quale colpa avesse, poi me lo spiegai, in realtà le corna del padre di Bambi quando appare attraverso l'incendio della foresta spiegavano il senso catartico per cui la madre è giusto che morisse, perché il padre aveva quelle cornone in testa. Giuseppe Sanzon. Il lacrima movie zoo necrofilo, secondo me, si è trasferito in pieno nel mondo di Facebook, in questa ossessiva pubblicazione da parte di molti animalisti, certo, di animali spiaccicati con le viscere sparse sugli asfalti delle autostrade, di cani, con appelli che vengono lanciati. C'è un compiacimento malato nel mostrare questi cuccioli massacrati, spellati, spiaccicati, e dire guarda dove è arrivata l'umanità. Sono cose bruttissime. Chi fa del male gratuitamente agli animali ha dei problemi veramente seri. Ma lì c'è un compiacimento nel mostrare il cuccioletto macilento e tutti si sentono buoni. Grazie Ombretta Fiammetta. Mara, buongiorno. Buongiorno. No, io mi riferivo ai film strappalacrime che io ho 60 anni, all'età di 15 anni, 16 anni, ho visto per la prima volta, perché ero all'estero, quello con la suora e Amedeo Nazari, che erano in una cava che saltava per aria il bambino. E la cosa che mi era rimasta allora, più... Si spiegami un attimo, Sansonna, facciamo una scheda veloce di questo film. Penso sia Catene o comunque... Catene. Però qui siamo in un genere comunque molto precedente a questo, cioè, c'era ancora una composizione drammaturgica di un certo respiro, non siamo ancora nella brutalità del Lacrima Movie. Però insomma, già c'erano dei sintomi del Lacrima Movie. C'era il romanzo d'appendice, c'era tutta la tradizione italiana degli ex voto, cioè, c'era una forte tradizione anche cattolica del senso di colpa, della redenzione, tutto questo c'era già. E quella della suora gemella che aveva... Ce ne sono diverse varianti, adesso, immagino di sì. Erano due sorelle gemelle, una ha partorito un figlio che poi morirà di stenti e lo affiderà alla suora, che avrà questo figlio, che alleverà, che in realtà è il nipote, qualcosa del genere. Non lo so, me lo sto inventando. Mara, va avanti. Ecco, allora io ho visto questi, essendo già stata traumatizzata dalla religione cattolica bambina. Ma quella non è stata l'unica, io ho nel deciso, senso. No, dopo aver. Cioè, sono stata traumatizzata veramente. Col peccato mortale e tutte quelle robe lì. Vabbè, quello io è il bello. Scusi, Mara, film... adesso non voglio difendere, ma il bello della religione è che c'è il peccato. Il bello di una religione che c'è il senso del peccato, sì, no, sì, può innescare una perversione, però io senza peccato che vivrebbe a fare. Se avessi avuto dei figli non li avrei mai mandati a religione e non li avrei mai mandati in chiesa. Ma che c'entra con Lacrima Movie? Sconvolta. Sì, ma che c'entra con Lacrima Movie? Io non voglio, guardi, non ho nessun tipo di pregiudizio, ognuno può esprimere il suo parere, ma che c'entra con Lacrima Movie? Mica tutti sono traumatizzati quelli che vanno in chiesa. Lei sarà capitato questo, ma sta gente è contenta. Ho visto quel film, quando io ho visto quel film, ero una ragazzina, e veramente sono rimasta sconvolta. Veramente questa suora... Ancora ne porta i segni? Vabbè, bastava rinunciare all'idea di prendere il velo. Dunque, e poi non usciamo dal seminato del genere specifico dei Lacrima Movie anni 70. Sì, ci sta me. Portando un po' fuori strada. Ritorniamo nella carreggiata che avevamo segnato 800240024, quel meraviglioso filone di film educativi nati tra gli anni 60 e gli anni 70, poi con i fantomatici edonistici anni 80 fu abbandonato il genere, ma oggi sarebbe il caso di riprendere in mano l'idea di un grande Lacrima Movie. Oh, che vuoi? Brigate che c'ho da fare. Allora, una bistecca per me e spaghetti per la signorina, al dente. Alvaro, una bistecca per sto stronzo e spaghetti per sta mignotta, scotti. Ma gol, è buona però. Ridi che mamma ha fatto i gnocchi. Ma vedi che strasciacuchi devono da venire a sti locali così eleganti. Cameriere! Coro! Non lo vedi che coro? Guarda che qui ne sentirai di peggio. Mamma mia, questa cicogna! Allora, questa introduzione vi lascio un po' di suspense. Potrebbe farvi pensare che abbiamo sbagliato genere, invece no. Proprio nel contrasto a questo ambiente truce, questo è il tipico ambiente di un ristorante parolacciaro romano, dove va anche Fantozzi in un suo film, sono locali in cui vanno persone dotate di uno spiccato senso del masochismo, cui piace essere umiliati, maltrattati, e in cui i camerieri sono pagati appositamente per trattare male i clienti, per prenderli a parolacce. Questi provano un brivido fantastico a questa sorta di mortificazione, però trattandosi di piange il telefono, la vicenda prende un'altra piega. Pronto? Pronto, chi parla? E tu chi sei? Senti, sono un amico della mamma, me la chiami per piacere? Non c'è, e poi a te lei fa dire sempre che è fuori. E tu come ti chiami? Chiara, tu? Lo sai che è un bellissimo nome? Lo so, me l'ha scelta la mamma. Tu vuoi bene alla tua mamma? Lo sai che anch'io voglio bene alla tua mamma. Sei un imbroglione. Perché? Perché se tu le volessi bene, anche lei parlerebbe con te. Beh, ma io le voglio bene lo stesso, sai. Tu sei un papà? Sì. E la tua bambina dov'è? È nel mio cuore. Bugiardi, i bambini non stanno nel cuore. La mia bambina sì. È più grande di me? Tu quanti anni hai? Quasi 7. L'istinto è rispondere a questa bambina, ma sai dove mi stanno i miei bambini? Però non si può dire. Noi già lambimmo piange il telefono, addirittura qualche ascoltatore rintracciò la fantastica protagonista. Perché lo inseriamo nel Lacrima Movie? Ancora non è morto nessuno. No, in realtà poi nel finale si avvierà una lenta agonia, lo stesso Modugno che in questo film veste i panni proto-calboniani di un comandante della Ritalia che seduce questa modella francese con lo stile appunto alla Calboni, molto untuoso, con questi baffetti, con questo romanticismo untuoso. E la ingravida. Nasce questa bambina, ma nel frattempo lui, siccome lui ha ha problemi di cuore, abbandona l'Italia per tempo e diventa l'occhio lungo, esatto, con lungimiranza, abbandona l'Italia e diventa trasportatore di armi, finisce in Africa e come in pieno mondo movie Africa addio la Jacopetti, viene rapito da una tribù subsahariana e rimane 7 anni prigioniero di questi, poi ritorna e ritrova il vecchio subendo ignominose indicibili angherie. Ne metto la dura prova la virilità modugnesca tipica, no? dell'uomo del sud, però intatto ritorna, tutto sommato ritorna 7 anni dopo a Roma e cerca la bambina e trova il vecchio amico di un tempo che già inebetito in età giovanile, Claudio Lippi, con lo taglio anni 70 semplicemente, che era il suo vice, che gli dice che lei ha risposato un altro uomo e quindi, però lei è carica di 7 anni di rancore nei suoi confronti perché pensa di essere stata abbandonata, quindi ci sono queste... un margine di verità c'è. L'accannata però era prigioniero appunto e subiva queste innominabili. E la cosa straordinaria che a me piace il surrealismo, la bambina che ne sa di tutto questo? La bambina non sa nulla, non sa che il vero padre è Modugno, ma la cosa eccezionale è che in mezzo a queste atmosfere da harmony tutto sommato appare come un lampo appunto l'incursione in cui lui, mentre cercava di sedurre nella fase iniziale, la porta alla parolaccia, quindi la porta al ristorante di Fracchia la Belva Umana. Questo è il succo, cioè nel delirio di genere di quegli anni ci si poteva inventare tutto, ci si poteva piazzare di tutto, cioè la cosa bella di questi film è la totale imprevedibilità, puoi trovare delle perle recuperare la donna che tu hai accannato in 7 anni con la figlia, la porti da uno che la insulta sta mignotta subito, bellissimo. Sergio, cosa ci suggerisci? Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, il film è L'albero di Natale, film strappalacrime, mi sembra che è francese, che praticamente... Cosa accade? Chi muore? Chi soffre in questo film? Schiatta il bambino. Naturalmente. Nasce per questo. Ha una sfiga tremenda perché poi dopo si trovano in vacanza, il padre è in acqua, immerso in acqua, il bambino sopra il moscone... incidente aereo, cade sta aereo, 20.000 persone, l'unico che viene contaminato è sto bambino qua. C'è anche una venatura, un'accezione catastrofista in questo film, quindi è un genere avanti. No, L'albero di Natale mi ricorda una fantastica vicenda che avrei approfondito se avessi avuto le prove oggi. A Roma apparve nella giornata di ieri un fantastico cono gelato rovesciato, albero natale di cartone, di fronte a Palazzo di Piazza Venezia, la piazza che vide fremere gli italiani di fronte ai discorsi del Duce, l'altare della patria a Milite Ignoto, un cono di cartone, sembrava una torta. Già questa notte accarezzai l'idea di parlarne questa mattina, cos'è quel cono di cartone? Un astuccio penico di indigeni della Papuasia, un cono rovesciato di un gelato, un innominabile oggetto, l'hanno smontato questa notte per togliere le prove e impedirci questa mattina di parlare del cono gelato del sindaco Alemanno. E quindi parleremo, ahimè, del Lacrima Movie, ma tra un istante, dopo le informazioni del traffico. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Caro papà, cara mamma, vi prego di perdonarmi per questo nuovo dispiacere che vi do. Non è perché non vi voglio bene che vado via, ma perché ho capito di essere diventato come un peso per voi. Mamma, scusami se ti ho fatto disperare proprio quando avrei dovuto starti più vicino. So che il collegio sarebbe la migliore soluzione per me, ma ho ancora tanto bisogno di affetto. Spero che tu, papà, non sia tanto arrabbiato con me, perché io invece ti voglio tanto bene e ho una gran voglia di abbracciarti, di stringerti e di chiederti perdono. Papà! Papà! Papà! Scusate, stento, riesco a trattenere le lacrime. Questi film, devo dire, che avevano una loro funzione storica. Erano film che dovevano fungere da arma impropria per stritolare le coscienze di coloro che avevano negli anni 70 una labile idea di accannare o moglie o marito, separarsi, divorziare, siccome c'era in atto una diffamatoria campagna che voleva impugnare, e me poi passò, una legge a favore del divorzio. Questi Lacrima Movie ci insegnano che se noi divorziamo o lasciamo la moglie o il marito, poi i bambini si schiantano sotto gli alberi dalle foglie rosa. Giuseppe Sanzon. Qui la regia... Facevo finta, naturalmente. Sì, sì, no, certo, no, ma... No, lo dico perché è facile simulare le lacrime. Ci riescono tutti, non ci riesco io. Dai. Sì, sì, abbiamo visto, no? Ma l'albero dalle foglie rosa, diretto da Armando Ranuzzi, altro macellaio di gran pregio, sceneggiatura scritta a due mani da Goebbels e dal Canaro della Magliana, e vede il solito Renatino Cestier, già malato, quindi già provato dalla malattia, che si avventura per queste strade della periferia romana mestissima, viene addirittura pioggia battente, cosa potrebbe succedere di peggio? Potrebbe piovere, appunto, e piove, lui viene investito da questa macchina, il pirata scende, constata che il bambino sta morendo e se ne va, quindi lo lascia agonizzante, lui striscia fino a questo metafisico albero dalla sapienza, dalle foglie rose, ci si abbraccia. Ma le foglie rose sotto la pioggia mantiene le sue foglie rose. Appare come ad Abramo, appare questo albero delle foglie rose, lui ci si abbraccia e invoca questi genitori che appunto sono pronti al divorzio, ma insomma, vengono redarguiti da questa muore poi il bambino. Morte rituale, abbarbicandosi all'albero sovrannaturale. E troveranno il giorno dopo un gelido cadaverino sotto l'albero dalle foglie rose e decideranno di non lasciarsi. Tutto questo è lasciato all'immaginazione, perché poi sfumano i titoli di coda con musica, dato era fondamentale in questi film, Cipriani che scimmiottava il Chiaro di Luna di Beethoven, insomma, e tante altre ignominie. Eh beh, ancora Levi, ancora era da nascere. È stato, però già era in nuce anche là. Stanno per concepire davanti all'ultima neve di primavera. Luca, buongiorno. Buongiorno, sono in linea? Sì, sì, certo. Salve, Luca dalla provincia di Bologna. Ci faccia piangere. La faccio piano, almeno io piansi tanto, piansi anche recentemente. Avevo un babbo che, un papà, però allora nei primi anni 70 tirava di pugilato e in quegli anni io vidi il campione. Lei ha avuto un'educazione molto severa, quindi? No, assolutamente. Non la menava suo padre? Assolutamente. Non l'ha mai picchiata? Probabilmente qualche patta nel sedere me la date, come? Ma come? Non potrei romperle il naso come minimo, sennò dov'è la tragedia allora? No, la tragedia era nel film Il Campione, quando io vidi appunto il padre di questo bambino che moriva sul ring, e quindi avevo mio babbo che tirava di pugilato a Bassano e mia madre mi portava a vedere questi incontri e rimasi un po' scioccato e per alcune volte non andai più. Cioè poi riportava a casa il papà macilento, pesto e sanguinante quando aveva fatto l'incontro? Sì, diciamo di sì, ecco. Era sempre lucido suo padre dopo gli incontri? Sì, sempre direi proprio di sì, anche perché lui la mattina dopo si alzava, faceva un altro lavoro, un altro mestiere, lo faceva a livello amatoriale. Ma bellissima, una storia tristissima. Per mantenere la famiglia faceva incontri di pugilato notturno. Ma lo faceva per passione, ora come ora non le so dire se aveva un compenso, proprio non ne ho la più pallida idea, non glielo chiesi mai, glielo chiederò. E quindi vedeva il campione, che era la storia di un pugile che moriva, e lei era giustamente... Sì, non so se ha presente il film di quel bambino appunto che seguiva il padre. Giuseppe Sanzon, Giuseppe Sanzon. Sì, sì, l'ho rivisto ieri, questa sequenza molto particolare, addirittura quando lui muore John Voight è su questo tavolaccio alla fine del film, c'è questo nero dietro. Ma c'è lo sbuffo di sangue. Sì, sì, no, il volto ormai cadaverico, gli occhi sbarrati, c'è Faye Dunaway che fa la parte della moglie che in punto di morte, come consalvo... Ecco, tu entra nei panni del povero Luca bambino, che sta lì, guarda il papà che prende i pugni in faccia, in questo film nella testa ogni volta immagina e pensa e teme a vedere questa scena. Per lei è stato penso traumatica questa storia. Per me è abbastanza. Lo so, lo capisco, Luca. Come dicevo, mio padre diciamo che fortunatamente le dava anche, perché è piuttosto grosso, però insomma... E l'avrà anche prese, perché si danno e si prende. Sicuramente, certo. Sì, lì si però lei temeva sempre che arrivasse il pugno finale e suo padre schiantasse sul ring. Diciamo che mi ha scioccato un pochino il film e quindi lo pregai tanto di smettere, poi smise per età più che altro. Vabbè, è peccato, perché se no avrebbe avuto un Lacrima Movie personale da raccontare, oggi avrebbe dato un importante botta di ascolto. Andiamo avanti. Va bene, allora ci vediamo dopo domani, signorina. No, maestro. Giovedì, allora. No, maestro, non verrò più. Perché? Ha deciso di non continuare a studiare? No, maestro. Ma perché allora? Perché sono innamorata di lei. Ma questo era un maestro di flauto, questa era la sua... Di violino, Gianluca, un flauto. violino. Chi muore qua? Velocemente, voglio farne sentire un altro. Muore l'amore, no, nel senso che lui ha un passato in cui c'è costellato di morti, invece poi ritrova da vecchio ormai con questa brezzolatura ridipinta, la sua vecchia allieva. Poi Modugno è spacciato per aristocratico, quindi anche qui patafisica pura. No, questa allieva giovanissima si innamora di lui e riscalda il suo vecchio cuore stanco, e quindi tutto finisce poi bene. Nessuna morte. Il dolore è nel passato, è retrospettivo. Ah, retrospettivo, questo diciamo è un sequel della morte. Le piaghe sono medicate. Andiamo avanti. Luca, bambino mio. Mamma! Questa è la mia croce, formata da tutte le sofferenze dell'umanità. Perché in verità vi dico che io sono il Dio dei poveri e degli abbandonati. Qui andiamo oltre però, qui Luca bambino mio ha proprio una visione vera, qua è diciamo dal punto di vista della dottrina correttissimo, questo è proprio un film da parrocchia questo. Eh sì, gli appare direttamente Cristo, e quindi appunto un non Cristo che adora appunto Cristo. Non è una metafora della sofferenza, è proprio in realtà la riproduzione di un miracolo. Adora cristologicamente Cristo i poveri, e quindi i poveri sono appunto. E Luca bambino mio che fine farà? Eh no, verrà appunto avvolto di questo amore, tutto andrà a finire bene. Come insomma. Marcellino Panevino, sì. Ma muore Marcellino. Ritrova la mamma, sì, ritrova in un orizzonte metafisico anche qui. Ahimè, la sigla ci strappa i nostri dolori. Con rimpianto lasciamo la linea a Nicoletta Carbone che parlerà di altri dolori. Grazie Giuseppe Sanzonna, grazie professor Chiappini, grazie Fabrizio Intonti. Ci sentiamo domani. Alors tous deux on est reparti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.